jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Buonasera a tutti, buonasera a tutti ancora da Stefano per un altro appuntamento con Jazz e dintorni. Speriamo di avervi ritrovato dall'altra volta e anche oggi una puntata a tema, come sempre le nostre caratteristiche. La puntata di oggi sarà dedicata al jazz e tutti si chiederanno che cos'è il jazz. Il jazz è qualcosa che ho inventato io come definizione ed è l'unione di due parole, il jazz e il relax. Quindi potete già ben immaginare che la musica che vi farò ascoltare stasera è una musica così che unisce le caratteristiche di sofisticazione, di ricercatezza del jazz a quelle di atmosfere più rilassate. Forse dopo una giornata di lavoro molto intensa, come tutti voi avrete avuto, un po' di questo tipo di musica non vi dispiacerà. E in fondo ho scelto questo tema anche per così dimostrarvi che il jazz non è solo improvvisazione, non è solo assoli, non è solo quello che si immagina sempre così di tanti strumenti che si alternano, ma è anche musica che può essere ascoltata così in un momento di riposo. Ma iniziamo subito con la prima proposta, che è una proposta di un grande trombettista, si chiama Herb Alpert. È un trombettista più ormai di una certa età, è nato nel 1935 e già dagli anni 60 ha avuto molto successo. E lo ascoltiamo in una delle sue produzioni recenti, è una produzione del 1996, quindi piuttosto recente direi. E questo pezzo che sentiamo si intitola Across the Bridge e il disco da cui è tratto è Second Wind, Herb Alpert. Herb Alpert, Across the Bridge, da Second Wind, 1996, grande tromba come avete sentito, grandi atmosfere, un professionista di lunga data, come abbiamo detto, negli anni 60 era già famosissimo, pensate che già a metà degli anni 60 aveva vinto un numero incredibile di dischi d'oro e di Grammy Awards, quindi era allora famoso con il nome di Herb Alpert and the Tijuana Brass. Molti di voi lo avranno sentito in pezzi che sono stati ripresi oggi, capita molto spesso, come sappiamo, che vengano riutilizzati pezzi del passato e sicuramente i pezzi di Herb Alpert si prestano a questo. Ma continuiamo nella nostra carrellata dedicata al jazz, come dicevo prima, cioè al jazz e relax, qui da Radio Alma 101.9. Vi ricordo, sono Stefano, il programma è Jazz e dintorni, e oggi i dintorni sono proprio quelli delle atmosfere un po' velate, delle atmosfere di riposo, quindi rilassatevi e spero di aiutarvi con questa musica di sottofondo. Il prossimo pezzo è un pezzo invece di un sassofonista che si chiama Kirk Wallum. È relativamente più giovane, certamente più giovane di Herb Alpert che abbiamo ascoltato prima, è un musicista del 1958, nato a Memphis, nel Tennessee, e che ha inciso con moltissimi artisti importanti, in passato anche artisti famosi nel pop, come per esempio è il caso di Whitney Houston, di Babyface, di Barbara Streisand, con un grande musicista come Quincy Jones, insomma, sicuramente ha avuto esperienze notevoli che lo hanno portato anche a lui a avere un buon successo soprattutto negli Stati Uniti. Sentirete le sue atmosfere, sono quelle che si possono richiamare lo smooth jazz, ne abbiamo parlato l'altra volta, e sicuramente anche esse possono trovare il loro spazio in questa puntata di Jax. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Waltz for David, è un pezzo tratto da un disco del 2001 che si intitola Unconditional. Kirk Wallum, Waltz for David, da un disco del 2001 intitolato Unconditional. Anche qui abbiamo mantenuto le nostre atmosfere molto vellutate, un po' incantate, diciamo, in questo caso rese soprattutto da questo sassofono che sicuramente fa pensare appunto a quel genere che conosciamo come smooth jazz, a cui vi ho già introdotto l'altra volta per chi ha seguito queste puntate di Jazz Dintorni, e vedrete che ritornerà anche molto spesso. Adesso ci manteniamo sullo stesso strumento musicale, cioè sul sassofono, però passando a un artista che è uno dei più importanti sassofonisti sicuramente contemporanei. C'è chi dice che nella storia del jazz, dopo John Coltrane, forse è lui che ha dato un grande contributo a questo strumento nel jazz. Certamente ogni confronto è sempre pericoloso, ma Michael Brecker, appunto, di lui parliamo, è sicuramente un sassofonista che ha nella sua vita dato moltissimo al jazz e ha spaziato enormemente. Purtroppo Michael Brecker è morto, è deceduto nel 2007, direi piuttosto giovane perché era nato nel 49, è morto di una malattia non curabile, e questo ha lasciato sicuramente un grande vuoto. So che si dice sempre così, ma nel mondo della musica in certi casi si sente più che in altri settori, e sicuramente tutto quello che lui ha dato e che avrebbe ancora potuto dare al jazz rimane sempre così nei dubbi. Ma noi lo ascolteremo qui in un bellissimo pezzo di un disco del 2001 intitolato The Nearness of You. Era un disco di ballads, e questa anche può essere annoverata sicuramente in questo genere. Il pezzo si intitola Midnight Mood e appunto è Michael Brecker. Thank you. magico suono di Michael Brecker, sax, che non ci stancheremo mai di ascoltare, veramente dei pezzi straordinari e che ci faranno sentire molto la mancanza di questo grande musicista, un musicista che oltre ad aver inciso con tantissimi dischi ha collaborato con importantissimi artisti, direi più importanti della scena jazzistica, da Chick Corea, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, George Benson, Elvin Jones, molti altri, e poi anche è famoso per il gruppo i Breakers Brothers, composto con il fratello Randy Brecker. Randy Brecker che colgo l'occasione, suona la tromba, fortunatamente è vivo e continua a suonare, e tra parentesi suonerà presto proprio qui vicino a Bruxelles al Festival Internazionale di Verviers il 5 novembre, quindi il 5 novembre è un giovedì alle 8, Randy Brecker sarà lo special guest della Mike Stern Band. Mike Stern, grande chitarrista che abbiamo già proposto in varie occasioni, sicuramente un concerto da non perdere a Verviers il 5 novembre alle 20, Randy Brecker. Bene, ma riprendiamo adesso il nostro excursus nel jazz, nel relax, quello che io ho chiamato, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, il jazz. Il prossimo artista, musicista che vi propongo è un pianista, in questo caso un tastierista molto bravo e poco noto, sicuramente noto di riflesso, perché Lyle Mays, questo è il nome del tastierista che vi proporrò, è conosciuto soprattutto per la sua attività con il Pat Metheny Group. È l'altra costola del Pat Metheny Group, naturalmente il più noto, il personaggio del gruppo è proprio Pat Metheny, che abbiamo proposto varie volte, ma se voi andrete un po' a scartabellare fra i dischi e vedere di chi sono le composizioni, noterete che spesso sono Pat Metheny e Lyle Mays. E per chi ha assistito a uno dei tanti concerti che il Pat Metheny Group ha dato in giro per il mondo, avrà notato questo personaggio un po' particolare, con i capelli biondi, lunghi, che sta alle tastiere sempre un po' per conto suo e che fa un lavoro enorme da un punto di vista musicale, ed è proprio Lyle Mays. Lyle Mays ha anche inciso alcuni dischi da solo, in particolare, per la precisione, questi dischi sono tre, e il pezzo che noi ascolteremo è proprio tratto da uno di questi dischi, un disco del 1988, si intitola Street Dreams. Il pezzo che ascoltiamo è August e il musicista è Lyle Mays. Les concerts de l'espace DI, émission publique, Maison des Cultures de Saint-Gilles, samedi 10 octobre à 22h, avec The Whale et Monsieur Smith. Entrée gratuite, réservation souhaitée, 0487 29 17 43, 0487 29 17 43, ou www.radioalma.be. Samedi 10 octobre à 22h. Espace DI. Samedi 10 octobre à 22h. Lily Mace, August, tratto dal disco Street Dreams del 1988. Un altro contributo, direi significativo, a questa nostra carrellata di jazz soffuso, jazz d'atmosfera, di Jax, appunto, jazz relax. Lily Mace, ve l'ho detto prima, è famoso soprattutto per la sua collaborazione con Pat Metheny, e per chi ci ascolta più spesso non gli sarà così sfuggita questa linea molto vicina appunto alla musica di Pat Metheny. E proprio perché parlavamo di Pat Metheny, adesso voglio proporvi un pezzo in cui suona anche Pat Metheny, non solo lui ma anche lui. In questo prossimo pezzo appunto troveremo Pat Metheny, ma in buona compagnia, perché suona con Bill Frisell, chitarra, e Mark Johnson al contrabbasso. In effetti il disco da cui è tratto questo pezzo è un disco proprio di Mark Johnson e Bill Frisell, quindi Pat Metheny è stato, diciamo, invitato come ospite, ma si sente molto bene nel pezzo. Il pezzo, anche dal titolo, vi farà capire che è adeguato al nostro tema di stasera. Si intitola In a Quiet Place ed è tratto da questo disco, si chiama The Sound of Summer Running, disco di Mark Johnson e Bill Frisell. Pat Metheny con Bill Frisell e Mark Johnson, un pezzo tratto dal disco The Sound of Summer Running, 1998 questo disco, e il pezzo si intitola In a Quiet Place. Avete sentito anche qui delle atmosfere molto particolari create da queste due chitarre, quella appunto di Pat Metheny e quella di Bill Frisell, con un sostegno ritmico di Mark Johnson, in particolare il contrabbasso. Decisamente atmosfere ancora per sognare, per riposarsi, per rilassarsi, come vogliamo stasera proporvi. Però tra un relax e l'altro, forse è bene che io vi ricordi anche alcuni dei concerti jazz da me segnalati, quindi sotto la mia assoluta responsabilità. Non sono gli unici che concerti che ci saranno a Bruxelles e dintorni, ma quelli che io sicuramente consiglierei di non perdere. Iniziamo subito da venerdì prossimo, un concerto straordinario di Keith Jarrett al piano solo a Beaux-Arts, venerdì 9 ottobre alle 20. Il 15 di ottobre, giovedì, invece sarà un concerto a Flagey di Marcin Wasilewski Trio, meno conosciuto ma da non perdere, un piano e altri due collaboratori straordinari di questo artista polacco. Lo stesso giorno, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta, però al Cirque Royal c'è Jan Garbarek Group, quindi grande sax, grandi atmosfere anche in questo caso. Al Cirque Royal il 15 di ottobre alle 20:15. Il 28 di ottobre invece a Flagey, sempre alle 20:15, c'è Richard Bona. Abbiamo fatto ascoltare anche nella scorsa puntata Richard Bona, bassista, compositore, cantante di origine camerunense, ma con delle capacità musicali che vanno sicuramente, spaziano ben al di là della sua origine africana. E per concludere, qualcosa di un po' diverso dal jazz, molto più nei dintorni direi del jazz, è un concerto con musiche di Steve Reich, quindi uno dei padri del minimalismo nella musica classica contemporanea. Il concerto si intitola Ictus, questa diciamo iniziativa. La musica che verrà eseguita è Music for 18 Musicians, uno dei pezzi più famosi di Steve Reich, almeno più famosi nel senso che lo hanno fatto considerare come uno dei padri appunto del minimalismo. Il concerto si terrà sabato 31 ottobre al Beaux-Arts con inizio alle ore 20. E mi fermo ad ottobre, più avanti in altre puntate future spazieremo anche in altri mesi futuri. Sicuramente c'è da divertirsi qui a Bruxelles per chi ama la musica jazz, e spero che una parte del divertimento sia anche ascoltare questo programma dal titolo Jazz e dintorni. Chi vi parla è Stefano, nel programma in cui cerco di così portarvi per mano nella musica che a me piace e che spero di condividere con voi, che appunto parte da una radice jazz per poi espandersi a tante altre sollecitazioni e a tante altre così proposte. E una nuova proposta è anche quella prossima. Si tratta di un musicista che in realtà abbiamo ascoltato anche l'altra volta e che ben si pone in questo contesto di relax. Si tratta di Chris Botti, un trombettista molto molto vario nella sua così capacità di adattarsi a contesti molto diversi tra il jazz e il pop, però sempre con un tocco di classe, sempre con molta professionalità. Il pezzo che ascolteremo è un pezzo tratto da un disco del 2001, si intitola Night Sessions, e il pezzo si intitola Light the Stars. Thank you. Chris Botti, Light the Stars, pezzo tratto da un disco del 2001 che si intitola Night Sessions, e anche qui avete sentito come anche la tromba di Chris Botti riesce a creare atmosfere molto, molto particolari e a trasportarci così in questa serata di Bruxelles in pensieri relax, appunto, tutti particolari. Ed era questo un po' il compito di questa puntata. Ci rimane ormai un ultimo pezzo da ascoltare insieme, e questo pezzo ci porterà in atmosfere sempre molto rarefatte, ma particolari, perché è un pezzo di tre musicisti nordici. Almeno due di loro sono nordici, uno è americano, ma le atmosfere sono appunto prevalenti, sono quelle, sicuramente quelle nordiche, e si tratta di David Darling, Terry Ripdahl e Ketil Bjørnstad. Sono dei nomi così che sicuramente già vi fanno pensare appunto alla Scandinavia. A parte David Darling, tutti e due, sia Ripdahl che Bjørnstad, sono appunto scandinavi. Bjørnstad di Oslo in particolare, e le atmosfere anche che riescono a creare ci lasciano molto pensare a questi luoghi del nord. Hanno inciso insieme o separatamente molti dischi, tutti per la ECM, una casa discografica che chi ormai ascolta jazz dintorni comincia a conoscere e a considerare come familiare. Questo disco è un disco del 1998, si intitola The Sea, ed è diviso in varie parti. Questa parte che sentiremo è la parte seconda, infatti si intitola The Sea Part Second. E vi ricordo che i tre esecutori sono David Darling al violoncello, Terry Ripdahl alla chitarra, una chitarra molto particolare sicuramente, e Ketil Bjørnstad che è invece al piano. The Sea. Thank you.